Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti ascoltatori, 7:35 minuti, ben ritrovati con Si può fare, il buongiorno del weekend di Radio 24, 3492386666 se volete scriverci un sms, se volete interagire con noi fin da subito in tempo reale, la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, vi do anche l'account su Twitter chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Cominciamo con una veloce rassegna stampa che ci porterà fino al giornale radio delle 8. Vai! Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, i giornali di oggi si occupano soprattutto del terremoto al confine tra l'Umbria e le Marche, del crollo di un cavalcavia in Brianza, ma poi anche della manovra economica, delle novità che stanno spuntando in queste ore proprio della manovra economica e del nuovo scandalo che si annuncia su Hillary Clinton con nuove mail che questa volta non sono sue ma di un suo collaboratore e che potrebbero avere un impatto sulle imminenti, ormai, perché manca veramente poco più di una settimana, elezioni americane che designeranno il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America. Cominciamo con i titoli. Il Corriere della Sera sceglie di titolare sul terremoto: i paesi del sisma sono zona rossa, vietato entrare, l'ordinanza agli sfollati arriveranno fino a 600 euro al mese. La Ussita in particolare è stata dichiarata tutta zona rossa, più di quello che è successo ad Amatrice, perché le numerose scosse che si sono succedute hanno di fatto reso inagibili il 100% degli edifici, ma gli abitanti hanno annunciato una qualche forma di lotta, di resistenza, perché come spesso capita in queste situazioni non vogliono abbandonare assolutamente il loro paese. È la scelta che fa anche la stampa: con due terremoti la ricostruzione ora parte da zero, il commissario Errani, controlli da rifare, 7 mesi non saranno più sufficienti, il sisma ha abbassato il suolo di 20 centimetri, scrive la stampa. Ma Repubblica per esempio dedica al terremoto una copertina prima della prima pagina. Salviamo il cuore dell'Italia, scrive Repubblica, la terra ferita, il patrimonio in pericolo, i borghi abbandonati. L'editoriale di Mario Calabresi, che scrive: una terra ferita che non può essere dimenticata, la spina dorsale dell'Italia che trema dal 24 agosto e ora rischia di finire inghiottita nella paura e nel disinteresse. Giovedì notte nessuno è rimasto sotto le macerie, ma forse anche per questo i riflettori rischiano di spegnersi in fretta. Poi, dicevamo, la vicenda invece del cavalcavia crollato in Brianza sulla Milano Lecco, la fotonotizia c'è su quasi tutti i giornali di oggi. Il Corriere: sulla Milano Lecco schianto al passaggio di un tir, crolla il ponte, un morto e feriti. Cavalcavia che ha ceduto sotto un tir intrappolando le auto sulla statale 36 Milano Lecco e provocando un morto e diversi feriti, e questo è il punto dolente, doveva essere chiuso. Il pasticcio tra ANAS e provincia, allarme inascoltato, scrive la stampa, crolla il cavalcavia, un tir si schianta sulle auto lungo la Milano Lecco, un morto e feriti, accuse incrociate tra ANAS e provincia. Anche sul Sole 24 Ore, molti danni, nessun morto, ecco la ragione per un piano di prevenzione sismica. Qui si parla soprattutto dell'aspetto legato al terremoto, ma a proposito intanto riprendiamo il filo sul, questi erano alcuni titoli di giornale di oggi, ve ne leggo un altro. quello che riguarda la vicenda di Hillary e il titolo di Repubblica, che dopo la copertina sul terremoto si occupa delle altre notizie. FBI, altra inchiesta su Hillary, shock a pochi giorni dal voto, trovate nuove mail di Clinton, l'esultanza di Donald Trump, che dice ora si faccia giustizia. E poi ancora un altro tema è quello della polemica tra l'Italia e l'Ungheria, tra Orban e Renzi, sul tema solito dei migranti, soprattutto con l'Ungheria che assolutamente non vuole, oltre ad aver alzato muri, non vuole ospitare le quote previste da questo simulacro di accordo europeo che prevederebbe appunto che gli immigrati che entrino dall'Italia o dalla Grecia, cioè dai paesi di frontiera, debbano poi essere suddivisi in quote con i paesi dell'Unione Europea. Questa Ungheria sfida Renzi. Ieri Orban si è lasciato andare a queste dichiarazioni, lo sapete. Renzi è nervoso perché ha il bilancio non in regola e adesso deve spendere tutti questi soldi per i migranti. Orban ha voluto sostanzialmente provocare Renzi, il quale, se vogliamo, c'è anche cascato, ma ha risposto dicendo: Orban non conosce la realtà italiana, ma soprattutto l'Italia è pronta a mettere il veto in sede europea sui bilanci di quei paesi che non rispettino il meccanismo delle quote. Sarà che Orban però c'ha ragione, che Renzi è un po' nervoso, perché insomma, motivi per essere nervoso Renzi ne ha. C'è un referendum tra un mese che lo vede in svantaggio. C'è la vicenda dei migranti, l'Italia se li cucca, insomma, non dico da sola senza l'aiuto dell'Europa, ma quasi, e quindi motivi per essere nervoso Renzi ne ha. Se volete aggiungere 349-238-6666, cosa ne pensate? Ha ragione Orban, Renzi è nervoso, ne ha di motivi per esserlo. Scriveteci nel corso della lettura dei giornali, se arriva qualcosa sicuramente leggerò questi sms. Ma torniamo alla vicenda, cominciamo con il terremoto e andiamo a leggere qualche articolo. A Ussita, scrive Repubblica, è tutta zona rossa, ma noi non ce ne andiamo. E insomma, quello che accennavamo poco fa, l'intero paese è dichiarato inaccessibile, il sindaco esorta a resistere, se partiamo la comunità muore. Vivremo qui nei bungalow. Il sindaco Marco Rinaldi toglie gli occhiali, scrive Corrado Zunino, inviato di Repubblica, sotto il tendone gonfiabile della protezione civile, aperto in piazza, e dice: ci vorranno dai 5 ai 7 anni per tornare nelle nostre case. Me lo ha detto il commissario Errani. Mi sono consultato con la protezione civile, le continue estenuanti scosse hanno reso fragili tutte le strutture. Il mio salotto è una crepa dopo l'altra. Dobbiamo considerare inagibile il 100% del patrimonio abitativo. Ussita è quindi tutta zona rossa, comprese le 15 frazioni intorno, la stazione sciistica Frontignano, 1350 metri sul livello del mare, la splendida isolata San Placido con le sue 22 case proprio sopra la faglia, la vicina Casali, zona rossa, tutti fuori da casa. Un intero comune a zona rossa non era accaduto neppure ad Amatrice, e qui non ci sono stati né morti né feriti. Il sindaco Rinaldi di Ussita dice ancora: adesso si apre un periodo difficilissimo, vorrei gestirlo insieme a voi, dobbiamo lottare con le unghie e con i denti, se sbagliamo il nostro paese morirà. E questa è la situazione particolare di questo secondo terremoto, che pur avendo provocato meno vittime per fortuna di quello del 24 agosto scorso, non è però meno drammatico per quanto riguarda tutti gli altri punti di vista. Un paese che crolla, diceva ieri una collega in redazione, quando è arrivata la notizia, stavamo ancora parlando appunto del terremoto, del crollo di questo cavalcavia sulla Milano-Lecco. Sarà un'immagine pessimistica, eccessiva, ma insomma è un ragionamento che purtroppo tiene. Un paese che crolla, che cosa succede? Succede che la strada crollata, il problema è, doveva essere chiusa. I tecnici della provincia di Lecco stavano aspettando l'arrivo di un camion con la segnaletica, questo scrive il Corriere della Sera, per bloccare il passaggio delle auto, ma il ponte è rimasto aperto. Nessuno ha chiesto di fermare il traffico, neppure quando il tir di Nicoli con il suo carico d'acciaio si è affacciato sul cavalcavia. Intanto in strada i cantonieri dell'ANAS e quelli della provincia di Lecco erano ancora lì a discutere su chi avesse la competenza della struttura e su chi fosse il proprietario. È una scena assurda, ma è quello che è realmente accaduto. Secondo l'ANAS, e questo è il nodo della polemica, la struttura crollata è di proprietà della provincia, in quanto parte della strada Molteno-Giono. Per il presidente Flavio Polano e l'ingegnere Angelo Valsecchi, dirigente del settore viabilità della provincia, invece Lecco ha solo competenza sull'asfalto, mentre, tenetevi forte, la struttura è dell'ANAS. Come si fa a dividere una competenza del genere? Cioè, si può naturalmente sulla carta, sulle carte bollate si possono fare queste distinzioni, ma nella pratica che senso ha questo tipo di distinzione? Nessuna, forse, se il risultato è questo, se spinge a ognuno a disinteressarsi del complesso del problema. Non sono un tecnico, ma insomma è evidente che questo tipo di conflitti di competenze sono la vera follia italiana e sarebbe forse la vera riforma, non so se costituzionale o che cosa da fare. E invece a cosa succede? Succede la solita cosa, che toccherà ai giudici stabilire se ci sono responsabilità individuali o di qualche ente dietro questa ennesima tragedia che è causata appunto un morto e diversi feriti. Che dire ancora su questo? C'è l'intervista, la veloce intervista a Nencini, vice ministro ai trasporti, che dice: presto per dire chi sia la responsabilità. Sulla stampa questa intervista: quel che è certo è che in attesa del referendum costituzionale del 4 dicembre, che potrebbe definitivamente abolire le province, molte province italiane sono alle prese con seri problemi di bilancio. Tra l'altro è un fatto che dal 2008 al 2014 gli investimenti per le opere infrastrutturali, manutenzione compresa, siano scesi del 30%, con tutte le conseguenze negative del caso. Questa è la ragione per la quale il governo ha raddoppiato l'annuncio, insomma, di Nencini, l'autodifesa, diciamo, del viceministro Nencini, ha raddoppiato le risorse assegnate ad ANAS, destinando solo alla manutenzione 500 milioni di euro, vale a dire il 60% in più di quello che era stato fatto fino ad ora. Poi c'è un altro tema: ci stiamo confrontando con le regioni per riprenderci, riconducendola alle competenze di ANAS, una parte della viabilità provinciale, proprio quella viabilità provinciale che con la chiusura delle province da tempo, e molti si domandano che fine farà. Andiamo proprio sulle strade con le informazioni sul traffico. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché ha notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua di nuovo, buongiorno Alessio Maurizi, ascoltatori, e cominciano ad arrivare le vostre risposte alla domanda: ma Renzi è nervoso? Ha ragione il premier ungherese Orban, forse, quando dice che Renzi è un po' nervosetto negli ultimi tempi? Certo, c'è il referendum, sa di perdere, ci scrive un ascoltatore. Un altro dice, a proposito dei migranti, che è quello il problema per cui Renzi è nervoso, perché l'Europa ci lascia da soli. Renzi è nervoso anche perché la Fiorentina sta andando male, scrive un altro, e va bene. Di questo abbiamo appena parlato, così come abbiamo parlato del terremoto, del crollo del cavalcavia e dei conflitti di competenze assurdi tra la provincia e l'ANAS, che hanno di fatto bloccato non dico i lavori di manutenzione, ma anche semplicemente il fatto che il cavalcavia, che ieri è crollato sopra la Milano-Lecco, fosse chiuso come stava per essere fatto. E va bene, questo è un altro fatto che però è costato una vittima e dei feriti. Altre notizie, altri titoli dei giornali di oggi su altri argomenti, per esempio cominciamo Sole 24 Ore sulla questione economica: la crescita USA accelera, tassi e bond, tassi bond in aumento, il PIL del terzo trimestre in America più 2,9%, ben oltre le stime, beati loro. Questo dico io, non c'è scritto nel titolo del Sole 24 Ore, però più 2,9%, beati loro. In ogni caso la stretta della Fed è attesa per dicembre. Nel frattempo queste notizie sono buone notizie sul fronte economico. E poi che altro? Altre notizie, altre scelte, per esempio Il Messaggero invece si occupa di un'altra questione, che è quella, come titolo, dopo il sisma, mutui bloccati e sussidi, pensioni, Boeri nella bufera per il no all'uscita anticipata. Succede che ieri il presidente dell'INPS a un convegno ha criticato un po' alcune misure del governo sull'anticipo pensionistico, per esempio altre misure, ci sono costi a carico dell'INPS molto alti, secondo Boeri si poteva fare diversamente, lui ha detto, lui stesso aveva proposto un meccanismo che prevedeva il prelievo anche su pensioni al di sopra di una certa cifra, con l'obiettivo dichiarato di incidere sulla quota non corrispondente, scrive il Messaggero, all'effettivo rendimento dei contributi a suo tempo versati, cioè chi ha versato dei contributi e oggi riceve più di quello che avrebbe dovuto, in sostanza sopra una certa soglia, Boeri avrebbe fatto un prelievo per andare a intervenire sulle pensioni più basse, sugli esodati per esempio. Ma il governo ci ha pensato un po', poi gli ha detto ciaone e nessun prelievo su nessuna pensione, nemmeno quelle di oltre 5, 6, 7, 8, 9, 10 mila euro al mese, ma interventi a carico della fiscalità generale, e questo per Boeri non va. Ma insomma, poi lui dopo ha detto che non ha criticato in realtà il governo, che aveva compreso male il giornalista dell'Ansa che aveva rilanciato la notizia. E il Fatto Quotidiano: da martedì la RAI è abusiva, sballata la seconda proroga del contratto di servizio, per una voragine in una legge del governo trasmetterà tra due settimane senza avere trasmetterà la RAI per due settimane senza avere la concessione, e per pagare i compensi alle star ci vorrà un decreto ad hoc. Altro argomento è quello delle mail di Ilaria, abbiamo detto, scrive Federico Rampini su Repubblica. A questo punto del calendario elettorale, manca poco più di una settimana alle elezioni, la percentuale di elettori indecisi è piuttosto ridotta, ma una rivelazione che inchiodi la Clinton a responsabilità gravi può influire sul morale della base democratica e ridurre l'affluenza alle urne. Il nucleo originario dello scandalo? Hillary commise un'imprudenza ed anche una grave scorrettezza usando un indirizzo privato di email anziché quello governativo, WikiLeaks, diffondendo alcune di quelle email segrete, e adesso c'è stato proseguo di questa vicenda, aveva già messo a fuoco un conflitto di interessi reali. Quando era segretario di Stato americano, Hillary Clinton alternava e confondeva spesso le sue funzioni governative con le attività della fondazione filantropica di famiglia. Chi staccava grossi assegni per la fondazione aveva anche un accesso preferenziale al Dipartimento di Stato. E Trump festeggia. Ci sono le elezioni in Islanda, Questa è un'altra notizia. Oggi elezioni anticipate e, secondo tutti i sondaggi, a vincere dovrebbe essere il partito della rete, il partito dei pirati. La leader del partito dei pirati, Birgitta Jonsdottir, a Repubblica, in una intervista anticipa: abbiamo consiglieri stranieri, tra cui la magistrata anticorruzione Eva Joly. Lei ha creato la nostra struttura, ci insegna a scovare i grandi evasori, criminali dai colletti bianchi. Già capite su quale orizzonte si situano i pirati islandesi, una sorta di Movimento 5 Stelle islandese. Noi progressisti e liberali nel mondo abbiamo urgente bisogno di una nuova visione comune, di progettare insieme per i cittadini delusi, altrimenti perderemo e i Trump e le Le Pen, gli estremisti, vinceranno. Chiudiamo con una notizia che riguarda l'alimentazione, vai! Niente Nutella, niente panna, niente merendini, perché il cibo senza le nostre rinunce a tavola, secondo un sondaggio Nielsen, lo scrive il Corriere della Sera in prima pagina, uno su due dei consumatori preferisce evitare zuccheri, glutine e lattosio, e le aziende si adeguano. È tutto un fiorire di prodotti senza glutine, prodotti senza olio di palma, senza aromi, senza grassi, senza tante cose che in alcuni casi non è dimostrato che possano fare male, in altri invece sì, abbondantemente dimostrato. In ogni caso i consumatori non si fidano più e vogliono prodotti senza. E va bene, ci fermiamo qua, c'è il giornale radio, ci ritroviamo dopo con Si può fare, andiamo avanti fino alle 10, buona mattinata, dopo giornale radio. Radio 24 è a Lucca in occasione del Lucca Comics. Per chi non potrà essere lì con noi, il 1° novembre, giornata dedicata al mondo del fumetto, con interviste, personaggi, approfondimenti e 3 appuntamenti speciali con Dylan Dog, alle 10, alle 14 e alle 18. Se vuoi saperne di più, vai su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Pneumatici invernali Yokohama V905. Metti i tuoi sensi in contatto con la strada. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body, so don't stop, stop. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini e buon sabato a tutti. Quando sono le 8 e 21 minuti, riprende una nuova puntata di Si può fare. Carlo, Milano Monterosa. Oggi sembra che potrebbe venire fuori un po' di sole, ma ero troppo assonnato. Ammetto che sono arrivato in metropolitana, ma ho con gli occhi chiusi. Raffreddato. Li ho aperti adesso dentro nello studio. Ah, si sente che sono raffreddato. Cercavo di fare anche la voce sorridente. Che sennò poi tua mamma si preoccupa. Esatto, se sente che sei esatto. Non è vero, ma non sono raffreddato. E comunque sono sotto tachipirina. Si può dire? No, forse no. Forse neanche tachipirina si poteva dire. È pubblicità, vabbè, dai, ma ci sono i generici che hanno lo stesso principio attivo, quindi. Esatto, sono sotto lo generico, sono sotto paracetamolo, volevo dire che sono sotto paracetamolo. 800 24 0024, vi aspettiamo naturalmente per stare insieme a noi fino alle 10 per raccontarci le vostre buone notizie, per giocare con noi. Ma perché, amici giapponesi, ma perché? Perché oggi partiamo da questa notizia incredibile qua, di una campagna della compagnia dei treni Tokyu giapponese che ha invitato le donne giapponesi a non rifarsi il trucco. O a farselo anche a semplice... in treno, mentre il treno va. Mentre viaggiano. Perché sarebbe una cattiva abitudine, non rispetterebbe la buona maniera, eccetera, eccetera. Fra le tante cose che hanno stigmatizzato per migliorare la vivibilità nei treni, questa, le donne. Forse giustamente, secondo me, se la sono presa, ma perché? Perché ce la ve la prendete con noi? Perché dovrebbe dar fastidio? In effetti non mi è chiaro. Può anche dar fastidio. Allora noi vi chiediamo questa mattina, cari ascoltatori, 800 24 00 24, voi cosa dà fastidio sui treni la mattina quando si viaggia tutti accalcati, pendolari o non solo? Ma anche quando si è in pochi, ci sono momenti pochi, molto fastidiosi. Perché se uno parla molto a voce alta al telefono, lo senti anche se è lontano. Classico, per cui esistono anche carrozze del silenzio in cui non si può parlare al telefonino. Però questo è il trucco. È strano, perché in realtà mi aspetterei quasi più da parte delle donne una protesta per dire guidate così male che io tutte le volte mi parte la matita. Esatto, mi parte il rimmel. 800 24 00 24, a voi cosa dà fastidio quando viaggiate sui treni? Chiamateci, come sempre la chiamata che ci piace di più, che ci convince di più, si porta a casa anche questo fine settimana i biglietti per la mostra di Escher a Palazzo Reale di Milano. Tra poco, vabbè, insomma, noi qua è detto c'è caldino, ma al sud stanno ancora andando al mare. Sono messi molto meglio, grandissime invidie, ho visto dei bagni addirittura in Sicilia, spettacolari. Esatto, noi andiamo proprio in Sicilia per parlare di un luogo bellissimo, su cui però c'è una questione di cui discutere. Voglio proprio esagerare. Le tocco tutte quante. E allora siamo partiti così con questo super Vasco. Voglio andare al mare perché vogliamo parlare di un luogo di mare bellissimo che Scala dei Turchi, siamo in provincia di Agrigento, un posto incredibile. Chiunque ha visto le immagini o ha avuto la fortuna di esserci stato, io non ci sono mai stato, è una scogliera fatta quasi a scalinata, bianca, di marna, incredibile, un luogo che chiede la tutela dell'UNESCO, ma che ha avuto anche diversi problemi perché c'erano almeno due ecomostri che sono stati tirati giù dopo tanti anni di discussione. Adesso però la questione è che dalla prossima stagione l'ingresso sarà a pagamento in questa spiaggia, e allora ne vogliamo parlare con, se c'è con noi, sì, Claudio Lombardo, responsabile di Mare Amico di Agrigento. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, intanto vediamo se abbiamo detto giusto. C'erano almeno due ecomostri, così detti, un albergo e una casa privata che sono stati rasi al suolo, è così? Ce n'erano in più di ecomostri, sono stati abbattuti nel 2013, qualche mese dopo siamo riusciti a bloccarne altri 25, perché nel frattempo stavano nascendo proprio sopra Scala dei Turchi. Cioè la costruzione di altri 25? Sì, la costruzione di altri 25 siamo riusciti a bloccarli, allo stato attuale sono stati posti sotto sequestro e la ditta e tutti quelli collegati a questa operazione sono stati rinviati a giudizio. Perché ricordiamo una cosa, Lombardo, ricordiamo una cosa, che l'ecomostro, quello forse più famoso, quella carcassa di albergo che poi è andato giù, eccetera, nasceva negli anni 90 su un progetto di sfruttamento della costa, eccetera, anche lì bloccato dal ricorso di associazioni ambientaliste che dicevano non si può costruire a così pochi metri dal mare in un posto così particolare, incredibile. E quindi siamo un po' sempre alle soglie. Almeno quello è stato buttato giù, però ci stavano tentando nuovamente e siamo riusciti a bloccarli. Ora la novità di quest'anno e del prossimo anno è che stiamo tentando contingentare e controllare l'ingresso dei visitatori. Ci sono alcuni giorni intorno a Ferragosto, per esempio, ad agosto comunque in ogni caso, dove ci sono fino a 10.000 persone. La cosa, oltre a essere molto pericolosa, ci sono delle persone che scivolano, insomma, anche perché mi dica se sbaglio, ma il luogo è particolarmente sensibile e fragile, è sensibile al degrado, perché queste scogliere sono anche a rischio, non è che sono cioè la gente che ne prende dei pezzi e se li spalma addosso, succede di tutto. È così o sbaglio? Bravissimo, bravissimo. Questa è una delle nostre azioni che facciamo da anni. Praticamente siamo riusciti a far conoscere in giro quello che accade Però Lombardo, ci dica una cosa, perché noi siamo rimasti sorpresi quando abbiamo letto la notizia. Scala dei Turchi, a gestirla sarà Mare Amico di Agrigento. Il proprietario Ferdinando Sciabarrà, con un atto di responsabilità e generosità, ne affida la gestione alle associazioni. Ma c'è un proprietario, e questa è la cosa incredibile. È incredibile, ma è così, ma è da secoli. Praticamente è della famiglia del dottore Sciabarrà, e oltre ogni ragionevole dubbio, cioè con le carte, è riuscito a dimostrare, infatti la certificazione viene fuori dall'assessorato regionale del territorio ambiente, che è privata. Ha tentato il dottor Sciabarrà negli anni di cercare di farle gestire al comune, ci sono una serie di missive che cercavano di invitare il comune, perché è necessario la presenza del comune, lo riconosciamo pure noi, a farla gestire. È un comune molto piccolo, si immagini che ha solo due vigili urbani il comune di Real Monte, quindi ha grosse difficoltà a gestire. E voi vi siete proposti con Sciabarrà di fare questa gestione da parte di alcune associazioni, però di far pagare anche un ticket a chi entra? Praticamente se noi andiamo a fare la custodia, la guardiania, lo sbigliettamento, la pulizia, la valorizzazione del sito, abbiamo bisogno di assumere un certo numero di persone, abbiamo un business plan. Quanto si pagherebbe però, Lombardo? Quanto? Ad occhio e croce, a oggi ancora non è nulla di non c'è scritto nero su bianco, perché ancora non abbiamo avuto l'affidamento definitivo. Pensiamo che 3 euro siano la cifra giusta, anche perché abbiamo la necessità di assicurare tutti i visitatori, oltre che contingentarli, assicurarli. Negli anni è accaduto, è un sito pericoloso, perché chi fa il bagno, e soprattutto in quelle giornate quando ci sono tantissime persone su, fai il bagno con i piedi bagnati, la marna diventa scivolosissima. C'è stato qualcuno, qualche distorsione, qualche piccola frattura. Noi vogliamo stare tranquilli e quindi è necessario. Però questo anche può succedere anche altrove, insomma, che uno si possa far male al mare. Però noi dobbiamo tutelarci per l'incolumità delle persone assicurare, ma forse, tutti i nostri visitatori. Ma forse anche perché è un luogo privato, perché solitamente, appunto, come sta dicendo Alessio, cioè, ci si fa male un po' dappertutto. Però il fatto che questo è un luogo privato, o voi siete assicurati, oppure nel momento che io entro, la responsabilità è vostra se io mi faccio male. Le pare poco, questo anche sì, anche questa la situazione. Negli anni la gente si portava i souvenir di pezzi di marna, si spalmava la marna addosso. Giova ricordare che la marna non è sana. È sana, nel senso che è più simile al cemento, se non sbaglio. No, è cemento, ecco. Il 5% è cemento. E praticamente abbiamo scritto, abbiamo fatto un promemoria, ma la gente come una sorta di rito, ogni volta che viene qua si spalma questa marna bianca sul corpo, che è deleteria per la cute, perché praticamente è cemento. Quindi tutte queste cose ovviamente non debbono più avvenire, non sarà più possibile andare sulla marna con le biciclette, con i cavalli, come spesso abbiamo visto che accade. Quindi, senta, però una domanda, Lombardo, che le voglio fare è questa. Sì. Siccome secondo la Camera di Commercio Scala dei Turchi accoglie 700.000 visitatori all'anno, con il vostro diciamo, la vostra proposta di un numero contingentato, far pagare un biglietto a 3 euro, questo numero di visitatori potrebbe scenderebbe, non è che poi si rischia di perdere un indotto per quanto riguarda il turismo e alla fine di rimetterci per quanto riguarda proprio tutta la zona? Assolutamente no, la cifra che dà la Camera di Commercio è l'indotto intorno alla Scala dei Turchi. Molti vengono nel Belvedere per fare la foto, non tutti ovviamente entrano dentro la Scala dei Turchi. In ogni caso noi dobbiamo contingentare per mantenere il sito. Le faccio riflettere che migliaia di persone che salgono su, al di là degli incivili che portano via pezzi di marna, anche salire sulla marna con le scarpe, con i piedi, e provoca un'abrasione. Noi rischiamo fra 20, 50 e 100 anni di non avere più la Scala dei Turchi, quindi è anche giusto contingentare. Ma tutto intorno a noi vogliamo almeno 1 milione di persone, ma tutto intorno e non obbligatoriamente sulla Scala dei Turchi. Senta, ma l'ultima cosa, questa sorta di convenzione che avete provato a stipulare col privato, in parte anche con il comune, perché riguarda anche il comune di Real Monte, è già, come dire, nero su bianco? Non è ancora operativa. È una proposta, praticamente il privato, vedendo che il comune non era in grado, non voleva gestire autonomamente, si è affidato a un pool di associazioni. Ci siete voi? Chi c'è? Poi, c'è Mare Vivo, certamente cercheremo di far entrare in questa organizzazione il FAI, che già sta facendo tantissimo. Benissimo. Per l'inserimento. Staremo a vedere. Ma mi scusi, le faccio una domanda al volo, ma secondo lei la Scala dei Turchi rimarrà sempre privata o a un certo punto tornerà allo Stato, essendo in realtà una spiaggia? Ma noi auspichiamo pure questo, diciamocelo chiaramente. Se si potrebbe pure affidare allo Stato, Stato la potrebbe prendere, ovviamente avendo a che fare con controparte il privato. È giusto che sia così, però allo stato attuale non possiamo vedere quello che accade senza fare nulla. La nostra proposta è anche per svegliare un po'. Va bene, giusto. Una proposta che riguarda un luogo bellissimo come questo, per salvaguardarlo e per utilizzarlo, valorizzarlo con una formula nuova. Grazie per essere stato con noi, Claudio Lombardo. Sarebbe la cosa migliore, l'esproprio. Sarebbe la cosa migliore, però non lo dobbiamo decidere noi, ma lo deve decidere la Regione Sicilia e lo Stato. Ma state facendo il bagno in questi giorni? Come no? Fino all'altro ieri io l'ho fatto personalmente. Beati voi, meraviglioso. Ma però lei dice che l'esproprio sarebbe la cosa migliore, ma in realtà il proprietario non vuole l'esproprio, perché ha dichiarato che lui comunque non la dà gratis allo Stato. Ma lo esproprio non è che impone un... ci vuole anche un pagamento. L'esproprio non viene gratuitamente. Cioè io come associazione ambientalista ritengo che sia la cosa migliore per esproprio. Ottimo. Nessuno si fa avanti, dobbiamo iniziare a lavorare. Va bene, grazie. Grazie mille. E soprattutto buoni bagni a Scala dei Turchi e non solo. Beati voi, in Sicilia stanno facendo il bagno. Noi qui insomma ci difendiamo però. Ci difendiamo. Smettere di dire bagno, guarda che fa proprio in giù l'acqua, secondo me. arriverà. Allora, cari ascoltatori, vi ha convinto questa soluzione per Scala dei Turchi? È una proposta, naturalmente. Intanto, meno male che sono stati tirati giù quegli scheletri di cemento terribili che, insomma, non ci avevano nulla a che fare con il luogo bellissimo che è quello lì. E questa è una proposta, staremo a vedere. 800 24 00 24 se andrà avanti, se farà strada. Intanto vi chiediamo se vi ha convinto Mare Amico con questa proposta. Poi Carlo, siccome Scala dei Turchi è un luogo bello da morire, io qua ci ho messo un'altra bella notizia, ce l'abbiamo. Vai. Oh, la notizia è questa: c'è l'apertura da parte del Vaticano sulle cremazioni. Non è vietata, ma a precise condizioni si può fare. Per noi è un bel si può fare, è una buona notizia. Si può cremare, volevi dire? Si può fare. Per chi vuole sondare questo modo di ricongiungersi in qualche modo con la terra. Quindi dopo, chi sono io per giudicare i gay? Dopo le donne preti, un'altra apertura sulla cremazione. Anche se ricordiamo che la Chiesa ha detto che continua a preferire la sepoltura dei corpi, poiché con essa si mostra una maggiore stima verso i defunti. Ora, è difficile, nel senso che comunque già sei morto, forse la stima ci tieni, quindi continuano a dire che comunque sarebbe meglio non cremare. E comunque, insomma, questo percorso a tappe forzate di modernizzazione di Papa Francesco della Chiesa va avanti. La prossima tappa, la prossima apertura verrà annunciata nel prossimo raduno spirituale che si terrà a Formentera, in mezzo a Cuba Libre liberalizzato. Pensavo della quinta puntata dei Young Pope di Sorrentino. 800 24 00 24, ascoltatori, tra poco vi aspettiamo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato. Ascoltatori, ben ritrovati. Allora, cosa dà fastidio in treno? I treni sporchi, ci scrive un ascoltatore, vabbè. Oppure cellulari a voce alta, in treno detestabili, scrive Amedeo da Udine. Quello che non sopporto sui treni sono chi, passando tra gli scompartimenti, non chiude le porte scorrevoli. Tonio. Ma perché si chiudono? Non sono automatiche ormai. Dipende, sul regionale sono ovviamente a mano, in legno, sul freccia rossa. In legno. A parte che anche sul freccia rossa spesso non funzionano, quindi dipende. Stefano da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Benvenuto. Grazie a voi. Vai, dici. Allora, a me dà fastidio le puzzette. Quando vado in treno, la gente che guarda fuori dal finestrino fa finta di niente, te la caccia lì. Quello dà fastidio, sai. Perché tra l'altro guarda fuori dal finestrino, quindi praticamente si sta girando e mettendo la sua parte posteriore vicino a te, direi, perché sarebbe meglio che desse le spalle al finestrino. Cioè, per non dare nell'occhio, in realtà si rendono visibili. Sì, esatto, loro fanno finta di guardare fuori e magari con la coda dell'occhio ti guardano, poi le mettono lì. Quelle danno veramente fastidio. Allora, so, ma dai, ma non capita tanto spesso, però, sì. Ma che linea fai, Stefano? Che linea fai tu? Se vado a Venezia, spesso... È una linea infestata proprio questa. Sarà perché si mangia bene qua da ste parti, e allora sai, sì. uno pieno... Certo. Ma a che ora viaggi tu normalmente? La mattina? Alla mattina soprattutto. Ma e poi la anche... sera al ritorno. Esatto, alla sera ritorno. E poi guarda, lì sono tutta gente che pendolari, gente che è abituata e gli tocca andare anche se non stanno bene, e ora così succedono queste cose, sai. Ah, certo, e che ha mangiato il baccalà. Lì però bisogna avere un po' di comprensione, forse, o no? Vabbè. No, però io la comprensione ce l'ho, però mi dà fastidio lo stesso. Certo. Grazie, Stefano. Grazie, il tema è spinoso ed è difficile per il sabato mattina. Spigoloso. È molto spigoloso. Dici, cosa hai fatto? Niente, ma oggi parlavo di puzzette in radio. Gianni dalla provincia di Verona, buongiorno. Ciao, sono Gianni. Prego. Niente, volevo dirti che io quando vedo una donna che si trucca in treno, sì, è veramente uno spettacolo straordinario. Intanto mi piace perché capisco i loro trucchi, le loro storie che fanno, no? Ma poi emanano dei profumi anche piacevoli, insomma. Io sono d'accordo che le donne si trucchino anche in treno. Quindi non vogliono. Ci vedi niente di strano, ma non ci in vedo effetti. Niente di particolare, anche condivido. Perché... ti portano nel loro mondo e sì. Che è sempre un mondo piacevole da vedere, insomma, ecco. però le volevo svelare che i trucchi delle donne vanno ben oltre a quelli che ci fanno vedere nel momento in cui si truccano sui treni, ecco. Quella è solo una piccola parte. Parlavamo di trucchi, giusto, di trucchi evidenti, i trucchi che non si di vede. Strategie. No, ecco, può darsi che dietro al trucco ci sia anche la strategia. Sì, però, ma Gianni, insomma... ma c'è qualcos'altro invece che ti dà fastidio sui treni, per esempio? Sui treni? Quando mettono i piedi sui sedili, ecco. Magari... Ah, l'ha scritto anche un altro ascoltatore, quelli che si tolgono le scarpe mettono i piedi sul sedile perché pensano di non sporcare, però intanto può arrivare anche un certo... Questa è una bella lotta, perché forse è meglio senza scarpe, perché se hai i piedi puliti è meglio senza scarpe, perché appoggi i piedi. Esattamente. Con le scarpe sicuramente stai rovinando Gianni, la seduta. Cioè, ti dà più fastidio con o senza scarpe? No, indubbiamente senza scarpe, perché e poi dovrebbe mettere un giornale, ecco, perché credo di averlo fatto anch'io. Però un giornale sopra, per evitare che... Vabbè, abbiamo capito Gianni, grazie, buona giornata. Grazie mille. Io il giornale lo metto spessissimo, il giornale poi ci appoggio sopra i piedi, succede. Per dormire, per coprirmi dalla luce. Perché tu dormi in stazione centrale, è diverso, ma è un altro problema. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? From man's right flower, it's in every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings. Freedom. Questa Freedom di Pharrell Williams, parliamo di un progetto che ha a che fare con questo. Molti pensano che quando si chiudono le porte del carcere dietro a un nuovo ingresso i problemi siano finiti lì, e invece no, inizia tutto un percorso di cui dobbiamo pure immaginare che cosa accadrà. Il carcere è una risposta a un problema, ma deve anche poi, le persone escono sostanzialmente e soprattutto ricordiamoci che il carcere ha un fine rieducativo. Io capisco che presi tra mille problemi, le bollette, i compiti scolastici dei figli, l'auto dal meccanico, non sia uno dei primi problemi per gli italiani, ma insomma, questo è. Allora, da Torino arriva un nuovo progetto che si chiama proprio Freedom. Ce ne parla Gianluca Boggia. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie per l'invito. Un progetto a cui si sta lavorando da tempo e che vede tutta una serie di istituti penitenziari impegnati a far lavorare carcerati nella produzione di varie cose, che poi hanno trovato finalmente uno store, un negozio a Torino, in pieno centro, che è stato presentato proprio in questi giorni. È così? Sì, è così. Abbiamo inaugurato 2 giorni fa, giovedì, alla presenza della sindaca di Torino, di altre autorità. E finalmente abbiamo un negozio stabile, uno store in cui portare a conoscenza del grande pubblico, insomma, i prodotti dell'economia carceraria. Io credo parliamo di tutto. Tante eccellenze anzitutto enogastronomiche, prodotti come tralli, prodotti a base di mandorle, biscotti, cioccolato, miele, vino, birra, e oggetti di design, borse fatti con materiali di recupero provenienti da vari territori italiani, perché una delle caratteristiche di questo store è quella di vendere prodotti che arrivano dalle carceri, dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia, da Aosta a Siracusa. Questo mi sembra il dato, uno dei dati più belli. Noi spesso ci occupiamo di parlare di quello che nei carceri o nelle case circondariali, come dirsi si voglia, ci sono attività e ognuno cerca di fare un proprio prodotto, e voi invece li unite tutti insieme e c'è un unico posto dove andare ad acquistare questi prodotti. Mi sembra una notizia bellissima. Sì, è proprio così. Cioè, lo sforzo che noi facciamo è quello di uscire un po', no? Voi dicevate giustamente che il carcere è un luogo a cui magari uno non pensa, per fortuna, no? Tutti i giorni, sì. Però è un luogo in cui ci abitano oggi 54.000 persone detenute, più tutti gli operatori penitenziari. Dobbiamo un po' fare i conti, no? Certo. con quello che succede lì. Quindi sono luoghi che spesso sono luoghi di ozio, in cui le persone non fanno nulla, purtroppo. Certo, sono persone che poi usciranno dal carcere, quindi bisogna pensare anche quando usciranno che persone saranno, se sono persone che sono migliorate in qualche modo rispetto a quando sono entrate, oppure addirittura se questo ozio e anche tutta una serie di tentazioni che hanno a che fare con il mondo della criminalità, che in carcere è ben presente, possono in realtà farle addirittura peggiorare. Come si fa a lavorare nelle carceri italiane? Perché non è semplice, è un passaggio che in questi anni c'è stato. Sì, sicuramente in questi anni c'è stato uno sviluppo di imprese, di cooperative sociali che hanno cominciato ad attivarsi all'interno di istituti. Purtroppo è uno sforzo che, insomma, deve ancora compiersi, no? Però c'è un potenziale sicuramente, e noi scegliamo i detenuti come possiamo scegliere un lavoratore, come un'impresa può scegliere un lavoratore fuori dal carcere. Quindi facciamo una selezione, vediamo le storie, le esperienze, le abilità delle persone e come fuori, come nel mondo tra virgolette normale, una persona deve mostrare quello che sa fare, così anche all'interno anche del carcere. Senta, ma la domanda sorge spontanea: vengono retribuiti i carcerati, sì, impiegati in queste attività, oppure come in Germania accade spesso, alcuni carceri sono quasi delle mezze imprese, dove però gli stipendi sono bassini, sostanzialmente fa quasi parte della pena, della riabilitazione. Esatto, questo è un tema, se vuole, dibattuto a livello europeo. Che tra l'altro è per prepararsi all'esterno, dove effettivamente si lavora e si è pagati molto poco, quindi mi sembra anche ha una sua certa saggezza, stage. Chiedo scusa. Assolutamente. No, questo è, dicevo, un tema che è dibattuto anche a livello europeo, no? Quando o internazionale, pensiamo agli Stati Uniti. No, i detenuti che lavorano per noi, per le imprese e le cooperative sociali, sono assunti e hanno un regolare contratto di lavoro e quindi ricevono una busta paga, e quindi, ma perché la legge italiana, questo mi sento di dire che di difenderla, no? Prevede questo, certo. Cioè il lavoro all'interno del carcere deve avere le stesse caratteristiche del lavoro nel mondo libero, e quindi dire che dovremmo essere anche orgogliosi, no? Lo ritengo un elemento di civiltà. Senta, perché ci diamo un motivo per cui io dovrei poter entrare in questo store a Torino, per esempio, per acquistare prodotti che vengono dal mondo Freedom anziché altri prodotti? Ma io credo che uno degli elementi più significativi sia che tutti questi prodotti hanno un potenziale narrativo fortissimo, ed è il potenziale narrativo delle storie di economia carceraria che ci sono dietro queste sbarre, un mondo che magari pochi conoscono, e come dicevo prima non è solo un luogo di ozio, ma è anche un luogo in cui si possono produrre cose belle e buone. Insomma, noi entrando nello store, sulla vetrina c'è scritto: vieni a scoprire il bello e il buono del carcere. E quindi il buono, dicevo, tutte le eccellenze gastronomiche, i taralli pugliesi, il caffè che arriva dalle lazzarelle, che sono le donne che lavorano nel carcere di Pozzuoli, e il bello, le malefatte che arrivano dal carcere di Venezia. I nomi sono sempre tutti bellissimi, banda biscotti, uno più bello dell'altro. Mi chiedo se avete paura delle rapine in questo negozio, penso di no. Ma non si può dire, magari qualche ospite viene a trovarci. Giusto, insomma, giusto. Noi chiudiamo la porta alla sera. Bravi, mi raccomando. Grazie Gianluca Boggia. Grazie mille, buon sabato. Freedom, era un bel si può fare. 800 24 0024, a dopo. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Siamo la coppia più bella del mondo. e sono tristi, perché non sanno più cos'è l'amor, il vero amore. Qua si comincia a ballare, su questa musica, così si ondeggia. Io stavo ballando e quindi ero lontano dal microfono. Per quello. La coppia, la vera coppia più bella del mondo di questa settimana è Renzi De Magistris. Non avendo potuto avere Renzi, abbiamo almeno De Magistris. Un'unione civile. Benvenuto. Buongiorno. Sarò così mi deprimete. Io dovevo dirlo, avendo noi due fatto insieme il Pride a Napoli, non potevo non dire che questa è un'unione civile, io ne sono contentissimo. Ma fra te e De Magistris o fra Renzi e De Magistris? Fra me e De Magistris ne sarei onorato, ovviamente, ma insomma non mi permetto di dire tanto. Senta, sindaco, però la vera notizia, il vero si può fare della settimana, a parte l'incontro con Renzi, è il calo dei reati a Napoli. È un annuncio importante perché ci sono calati del 7%, le rapine del 10%, quindi si può fare anche a Napoli questa cosa qua, ne parliamo tra un attimo, però la questione con Renzi non me la faccia saltare. Tutto merito dei soldi investiti su Napoli, o c'è anche una sintonia ritrovata col Presidente del Consiglio su alcuni temi? No, c'è un principio fondamentale per il quale ci siamo battuti moltissimo in questi mesi. Una cosa è l'autonomia politica, il dissenso, le opinioni diverse, e ribadisco che noi abbiamo posizioni politiche molto molto distanti al Presidente del Consiglio. Altra cosa è invece il dialogo istituzionale sulle cose da fare che ha portato a quell'accordo. Insomma, quando arrivano i soldi non ci si tira indietro. Potrebbe essere. Sì, è quello che dicevamo da tempo. Invece, per molto tempo, siccome noi assumavamo delle posizioni forti di critica, non venivamo chiamati ai tavoli istituzionali. Non è una legge su Napoli, sono soldi che dovevano essere destinati a Napoli e che finalmente, diciamo, con serietà, concretezza e rapidità abbiamo ottenuto. Quant'è la cifra esatta, però? 308 milioni, ma ci tengo a dire che sono progetti fortemente voluti dalla città, quindi non calati dall'alto, e questa è un'altra, secondo me, novità importante di quello che è accaduto qualche giorno fa. Di alcuni di questi progetti parliamo tra un attimo. Proprio un'altra cosa, sempre su Renzi, su una cosa su cui andate d'accordo, sui migranti. Cioè, il governo ha una politica che a lei piace, sui migranti almeno, nel senso che ha sposato questa linea di accoglienza, il governo, o no? Il tema che io pongo nei confronti del governo è sempre quello che poi a sua volta rimbalza dall'Europa, e di non stare ancora sufficientemente vicini a chi sta in prima linea, cioè ai comuni, e in particolare ai comuni del sud, che sono la prima linea all'accoglienza. Ma detto questo, guardi, io dico che sul tema dei migranti, dove tra l'altro Napoli l'altro giorno, secondo me, ha scritto una pagina bellissima ai napoletani in termini di solidarietà e di accoglienza, qui non è tanto un tema economico, politico, che ci stanno pure tutti, ma è un fatto di umanità. Io dico, quando arrivano queste persone, fratelli e sorelle disperati, la prima cosa da fare è accogliere. Poi possiamo dividerci su tutto, l'Europa che è stata indifferente, sorda e cieca in questi anni, i governi nazionali che potevano fare di più, e poi c'è il dibattito solito. Ma però, tra quelli che dicono che Renzi è uguale a Berlusconi, lei è uno di quelli che ha criticato molto Renzi, su questa cosa qua dei migranti il governo Renzi è diverso dai governi Berlusconi? Sui migranti io ho apprezzato ad esempio le parole del ministro dell'interno Alfano, quando è accaduta la vicenda di Gori e Gorino, ha detto c'è un'altra Italia che è quella di Napoli, dove si è fatta la corsa alla solidarietà, e di Lampedusa, dove ci sono tanti medici che fuori dagli orari di lavoro prestano assistenza. E che io mi riconosco di più in questa parte d'Italia, che non è sud contro nord, perché io sono convinto che al nord sono tantissime persone che hanno la stessa medesima sensibilità, è proprio tra chi è rimasto umano e chi non sa più che cos'è l'umanità e il cuore, secondo me. Ma quindi i soldi di Renzi sono arrivati perché dovevano arrivare, per dei progetti giusti, e non perché lei gli ha detto ti devi cacare sotto, giusto? Quella è campagna elettorale e non rinnego seppur con toni forti. Questi erano soldi che erano dovuti alla città di Napoli, perché il governo sta facendo in questo modo, fa una serie di accordi separati con tutte le città metropolitane. Era rimasta fuori solo Napoli, perché Napoli assumeva questa posizione di autonomia e di critica nei confronti del governo. Abbiamo fatto comprendere al governo, e Renzi è convenuto alla fine su questa posizione, che una cosa è l'autonomia politica, altra cosa è il dialogo istituzionale. Senta, tornando al si può fare vero di questa settimana, è un annuncio, poi staremo a vedere come finirà l'anno dal punto di vista dei numeri. Nei primi sei mesi dell'anno 2016 i reati a Napoli sono calati del 7%, addirittura le rapine del 10%, in controtendenza anche gli omicidi, meno 12%. Merito di chi? Anche del comune, delle politiche del comune, del sindaco? Ma il tema della sicurezza in Italia non è un tema dei sindaci, però i sindaci partecipano a un nuovo concetto di sicurezza urbana, ad esempio quello di coinvolgere tutta la città, perché la sicurezza non è solo la prevenzione del reato, è anche investire sul sociale, investire sulla scuola, investire in cultura, far partecipare i cittadini a processi di legalità, convincere i giovanissimi a non cadere nel tunnel della criminalità e soprattutto la criminalità organizzata. Da questo punto di vista a Napoli in questi cinque anni devo dire si è fatto moltissimo, ma non solo da parte del comune, anche proprio da quella che io chiamo l'antimafia sociale dei fatti, cioè la gente che si sta incominciando a schierare. E poi c'è bisogno sempre, a mio avviso, di maggiori risorse umane, materiali ed economiche per le forze dell'ordine e per la magistratura per fare indagini e fare processi. Ma mi scusi, nel senso che ovviamente io sono felicissimo di questi dati incredibili in realtà di diminuzione dei reati, però aprendo i giornali non si ha molto questa sensazione. Mi chiedo, per fare un esempio su tutti, Saviano sta uscendo con un libro che si intitola La paranza dei bambini, che parla esattamente di questo. Quindi dov'è il problema del fatto che noi invece come comunicazione non mi sembra che stiamo ricevendo delle notizie per cui uno dice a Napoli si sta meglio, ci sono meno reati, invece allora, i numeri effettivamente dicono questo. Allora, innanzitutto Napoli non è diventato il paradiso terrestre, certo. Una delle città più difficili del mondo continua a esserlo, però io dico a tutti venite a Napoli, perché Napoli in questo momento, in questi mesi, in questi anni sta avendo un'esplosione di vitalità, di umanità, di cultura, di turismo e di voglia di partecipare, che lo dico da napoletano, indipendentemente dal ruolo che ricopro adesso, non ha mai avuto. E questa onda parte anche dal sindaco, parte anche dal comune. Beh, io ci metto, l'avete detto anche voi prima, devo dire, molta passione, molto amore per la città che amo e cerchiamo. E quindi rivendica un ruolo anche su questo. Senta, sì, a proposito. Ma non da solo, io dico, perciò ho parlato, questo è un movimento popolare molto forte. Sì. Ritornando un attimo a Saviano, ti anche invito a venire nella città, perché credo che Roberto Saviano ha un po' perso il contatto con la nostra città. Napoli va vissuta e va raccontata nelle cose belle e nelle cose brutte. Là sembra solo come se non cambiasse mai nulla, e questa è una rappresentazione assolutamente non corretta, non reale, più che non corretta, di come Napoli è oggi. Può darsi che a forza di vivere sotto scorta, lontano da Napoli, abbia un po' perso i contatti con alcuni aspetti della cittadina. Lui stesso lo ha ammesso. Però è interessante. Senta, che bisogna raccontare invece i cambiamenti che stanno avvenendo. A proposito di questi cambiamenti e di scuola, che ha un ruolo nella legalità, ha aperto la scuola di formazione della Apple, ma è vero che anche Cisco vuole farne una sempre a Napoli? Guardi, a Napoli stanno investendo in tantissimi, ripeto, c'è un momento della città, a mio avviso, che è buono, perché Napoli ha tantissimi giovani, c'è la creatività, i costi sono anche bassi, poi saremo sede delle Universiadi nel 2019 che vedranno 15.000 atleti, l'Apple ha investito in un quartiere di periferia della città dove l'università ha aperto una prima articolazione di ingegneria. Poi ci sono soprattutto i nostri giovani che stanno investendo tanto, non stanno più andando via come una volta da Napoli. Cioè, ci sono dei segnali effettivamente interessanti. Ma anche Cisco c'è questo interessamento? Ma noi sentiamo anche noi, diciamo, io personalmente non ho avuto nessun contatto diretto, però anche io avverto questa, non c'è ancora niente di concreto. No, avverto, diciamo, la concretezza. Quello che è interessante è che poi ci sono proposte che mettono insieme sviluppo economico, ma anche un nuovo modo di vivere, quindi più attenzione all'aspetto umano, allo stare insieme, anche alla giustizia sociale, a cui noi teniamo molto. Senta, ma a proposito della scuola, questa sì che è concreta, della Apple che sta aprendo la scuola di formazione per sviluppatori proprio a Napoli, non si riesce a capire di chi è l'iniziativa? È di Renzi, che è amico di Tim Cook, va in giro sbandierando l'amicizia col numero uno della Apple, oppure è una cosa che nasce da Napoli, è dall'università? È un'unione civile, scusa. Quello che penso, sì. Allora, gli imprenditori in generale e soprattutto poi in questo caso le grandi multinazionali, investono se ritengono conveniente investire, non sono filantropi o persone che lo fanno perché glielo chiede qualcuno. Io credo che Apple, molto vero, Apple ha intuito che Napoli in questo momento, tra attrattività, creatività, mondo giovanile, è una città del Mediterraneo che si sta ponendo in modo interessante, loro che guardano anche al futuro dal punto di vista della creatività e dell'innovazione hanno pensato che a Napoli conviene investire. Direi che stanno tutti ascoltando il suo venite a Napoli, fra un po' dovrete mettere un biglietto all'ingresso perché vogliamo venire tutti. Guardi, è la città d'Italia che negli ultimi mesi maggiormente è cresciuta in termini turistici e culturali, quindi questo significa che c'è curiosità e tra l'altro dopo Londra è la città d'Europa che è più cliccata sui social, quindi evidentemente c'è comunque curiosità sulla nostra città. Ho ancora una domanda da farle perché riguarda voi con i rifiuti, avete una lunga storia, questa settimana la notizia riguarda i rifiuti, i frigoriferi di Roma. Sentiamo la notizia che la sanno tutti. Monessa che ride, Monessa mimata. La notizia è questa, che il sindaco Raggi ha detto ci sono questi, all'inizio hanno parlato di un possibile complotto, poi hanno detto ci sono, il ritiro degli ingombranti è sospeso, non sappiamo il perché. Noi ci siamo un po' informati, è abbastanza semplice, a Rossano Ercolini e lui me l'ha spiegato, è la nuova strategia, frigoriferi usati a chilometro zero, cioè stanno lì e aspettano che qualcuno passi a prenderselo perché magari gli può servire. A parte gli scherzi dei magistris, voi la questione dei rifiuti l'avete risolta esportandoli ancora all'estero o Napoli è autosufficiente da questo punto di vista oggi? Noi abbiamo già da 5 anni, io come mi insediare la prima volta, completamente risolto l'emergenza rifiuti e quindi il tema dello scandalo del passato. Chiaramente noi non ci accontentiamo e stiamo lavorando per alzare molto il livello del porta a porta, della differenziata, del trattamento della frazione umida, perché abbiamo detto no a inceneritori e discariche. Voglio rassicurare il sindaco Raggi che quando c'era veramente non il complotto ma il legame tra affari, politica e mafia, altro che frigoriferi per strada, insomma si trovava di tutto là, è semplicemente quindi un anche tema. Voi avete subito è il complotto, ma i rifiuti, cioè, vanno i rifiuti di Napoli vanno ancora all'estero? No, no? Non vanno più all'estero, non vanno più all'estero. Bene, ma questa notizia è importante, complotto dei frigoriferi, io non ero poco a ridere comunque detto questo a Roma si è aperto un po' di difficoltà, insomma. Senta, un'ultima cosa, perché non va la partita del Napoli a Torino stasera? Quale motivo? Motivo? Io in genere in trasferta, devo essere sincero, non vado mai, però pur avendo avuto la possibilità, l'invito di andare, non vado perché non, se è vietato ai tifosi napoletani di andare, io sono il primo tifoso in quanto sindaco, non perché sono più tifoso di altri, perché sono tifoso come tutti i napoletani, ritengo giusto non andare, ma la guardo anche io. In TV. Va bene, mi sembra una risposta perfetta. Grazie mille, sindaco. Grazie, buona giornata, voi, buon sabato. Grazie. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Questa è Si può fare, questa che abbiamo appena ascoltato è She's a Rainbow dei Rolling Stones e non è una canzone a caso, è una dedica particolare questa di oggi da parte di Claudia e di tutti gli amici di Arianna che ha lottato fino alla fine col sorriso ascoltando questa canzone e che ora salutiamo e continuiamo a volerle bene, ben sapendo che se n'è andata troppo presto. Ciao Arianna. E vi ricordiamo che noi stiamo sempre cercando dei si può fare in musica, ovvero se siete dei cantanti, dei compositori, dei musicisti o anche semplicemente degli ascoltatori e sentite una canzone dove pensate che ci sia racchiuso molto bene il concetto di si può fare, vi chiediamo di segnalarcela, di dedicarcela in qualche modo, come oggi noi abbiamo dedicato a questa canzone, e noi la faremo ascoltare. Potete mandarci le vostre canzoni sui nostri account social, su Facebook si può fare trattino Radio 24, oppure su Twitter si può fare 24, oppure sui nostri account personali, il mio è chiocciola Carlo Gabardini e il mio è chiocciola Ale Maurizi. Hai detto racchiusa oggi con 4 R, tutte mosce. Sì, assolutamente. C'è un altro sinonimo di R mosce? R? Arrotata. Arrotata, esatto. Fantastico. Oggi ci hai messo più verve, naturalmente era giusto così. 800 24 00 24, ascoltatori, abbiamo Emma che ci chiama da Torino. Intanto buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. E dunque, per quanto riguarda i treni, due cosettine, che poi tanto cosettine non sono. Lo sentivamo dal tono che non erano solo delle cosettine. La prima riguarda il riscaldamento e l'aria condizionata, cioè d'inverno si esce bolliti e d'estate si esce congelati. Ma la cosa più grave, sì, secondo me, sì, è che hanno limitato un cane per viaggiatore. Io negli anni 80 viaggiavo tranquillamente da sola con due cani in treno. Sì. Adesso, paradossalmente, uno può viaggiare da solo con un alano di 80 kg, ma io che ho due cagnetti di 7 o 10 kg... Ah, lei dice che bisognerebbe andare appeso, bisognerebbe misurare appeso. No, dico, cioè 7-10 kg io da sola in treno non li posso portare. Cioè con due cagnolini lei non può andare. Prima si poteva, Emma. Esatto. Vabbè. Però questo più che comportamenti degli altri viaggiatori sono questioni che riguardano Trenitalia. E che è un limite, bisogna metterlo a loro. Perché, no, bisogna metterlo perché sennò se lei ha 18 cani da 22 kg l'uno, d'altronde, poi magari ha ragione lei e il limite è troppo basso e ci mancherebbe altro, però un limite ci vuole. Comunque grazie Emma, buona giornata. Grazie, grazie mille. Arrivederci. Michele da Foggia, benvenuto. Pronto, pronto, buongiorno, buon sabato e buona domenica. E anche buon lunedì. Ma buttiamo lì, sì. Che magari non ci sentiamo. Ma buon primo novembre. Sì. Regaliamo appunto anche il martedì e il mercoledì. Ma certo, c'è il ponte, i morti, i santi, tutti quanti. Ciao Michele, buona giornata, grazie per essere stato. Era questo l'intervento. Cosa volevi dire, Michele? Allora, si può fare, sì. Praticamente, volevo intervenire sulla questione del lavoro negli istituti carcerati. Sì, sì. Molto positivo. Volevo aggiungere semplicemente una cosa: sarebbe opportuno e anche diciamo foriero di buone cose sia per la pubblica amministrazione, sia per le utenze private, sia per gli stessi diciamo detenuti, il lavoro per le pubbliche amministrazioni, per i comuni, per le province. Quindi non, perché no? Perché non si può fare, farli lavorare alla manutenzione delle strade, il verde pubblico, l'assistenza agli anziani, così stanno un po' fuori, lavorano, danno un contributo. Lei però intende lavorare, immagino di aver capito, senza stipendio per esempio, o comunque con... No, ci sono tante forme adesso, sì, di... Che il governo, perché lei sa benissimo, lei sa benissimo che gli enti locali, comuni, province che non ci sono più, regioni, sono senza soldi, quindi per fare lavori magari ci fossero soldi, ma per no, fare, fare lavori pubblici, le garanzie giovani, sì, la chiamiamo garanzia carcerati e li facciamo lavorare fuori. Giusto, si può fare. Bravo Michele, questo ci piace naturalmente. Ti posso leggere un SMS? Anche due. Visto che stiamo chiedendo a voi che cosa vi dà fastidio quando viaggiate in treno, ci arriva un messaggino che ci dice: grazie al rifare il trucco in treno ho incontrato il mio compagno e da 16 anni viviamo in letizia e affetto. Questa è Tiziana, alla quale chiediamo, aspetta, di telefonarci. No, e di spiegarci come mai il fatto che lei si rifacesse il trucco è diventato oggetto di questa amicizia. Esatto, di questo amore anche. Esattamente, quindi Tiziana chiamaci. Aveva ragione il primo ascoltatore che ha chiamato, non mi ricordo più il nome, anzi il secondo di stamattina, che ha detto che lui era molto, guardava con ammirazione, con interesse quasi. Forse è lui, allora, forse è il compagno di Tiziana. Lui. Chi lo sa? Chissà quante storie sono nate così. E in Giappone vogliono impedire tutto questo, che crudeltà, che crudeltà. 80024 0024, torniamo tra poco. si può fare. Cronache da un paese migliore. Zucchero con 13 buone ragioni per parlare della storia bellissima, speriamo, ma a questo punto possiamo dire al lieto fine del birrificio, sì. Messina. È con noi Mimmo Sorrenti, Domenico Sorrenti, presidente della cooperativa Birrificio Messina, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti. Buongiorno. Mi fai sentire ancora un po' Zucchero? Perché questa qua, Sorrenti, sarebbe quasi la canzone perfetta per voi, perché parla di una birra, naturalmente. Della birra. Se però il titolo fosse 15 buone ragioni. Mancano due persone, mancano perché due, parla solo di 13 buone ragioni, invece voi siete 15. 15 soci. Noi siamo, siamo 15 soci. Senta, noi siamo già sentiti altre volte in passato, sì. Diamoci del tu, Mimmo, senti, sì, quando questa idea era quasi solo un'idea, cioè avevate deciso più di un anno fa, un anno e mezzo fa, forse addirittura due anni fa, di investire il TFR, di mettere un po' di soldini di fronte alla chiusura dello stabilimento Birrificio Messina. Torniamo un attimo a quel momento, quando inizia questa avventura? Pronto, Mimmo? Sì, mi sente? Sì, sì, benissimo. Allora, noi abbiamo deciso, eravamo in presidio davanti, sì, allo stabilimento per cercare di salvaguardare quello che restava dello stabilimento. Visto e considerato che non voleva scommettere nessuno con noi, ci siamo messi in cooperativa. Avete scommesso voi stessi su di voi? Esattamente, abbiamo scommesso su di noi, abbiamo messo TFR, riscattato la mobilità e tutti i risparmi che avevamo di una vita li abbiamo messi tutti nella cooperativa. E questo avveniva quando? Nel 2013. E ci sono voluti due anni esatti però per arrivare a che cosa? Perché il risultato che adesso possiamo festeggiare è... Sì, sì. Dica lei, sì, ci sono stati due anni diciamo di lavoro intenso, abbiamo ristrutturato i capannoni, abbiamo montato gli impianti, adesso siamo arrivati il 29 settembre abbiamo fatto la prima bottiglia che è stata messa all'asta su Facebook e daremo tutto il ricavato ai bambini degli ospedali in corsia. Adesso siamo usciti sul mercato messinese e ora stiamo arrivando anche sulla provincia e grazie a Dio stiamo andando benissimo. Le birre sono in vendita finalmente, sì, birra, sì, dello finalmente stretto, in vendita. Birra dello stretto premium e DOC 15. Bravissimo, bravissimo. Ma siete affaticati? No, la gioia e l'orgoglio che abbiamo dentro, non abbiamo stanchezza. Ecco, questo volevo sentire, perché per noi questa è una storia bellissima che abbiamo seguito fin dall'inizio, che abbiamo voluto raccontare e non si sapeva dove andasse, perché adesso è facile dirlo che finalmente ci sono le birre finalmente in vendita, ma come hai giustamente raccontato, è stato un momento in cui nessuno voleva scommettere su di voi, voi vi siete rimboccati le maniche e avete detto, sai che c'è, bravissima, scommettiamo noi su noi stessi e da dipendenti diventiamo soci del posto dove andiamo a lavorare, quindi è una storia bellissima. È che ci sembrava forse nel momento della battaglia ci sembravi più allegro, adesso invece ci sembravi un po' più triste, invece è una notizia bellissima. No, è una... non si può paragonare, esatto, a nessuno, ma... perché esatto, la gioia che abbiamo e l'orgoglio di tutto quello che stiamo facendo è una cosa indescrivibile. Tantissimo, morale altissimo. Com'è questa birra? Piace? Io già ho avuto moltissimi pareri favorevoli, positivi, gli piacciono molto le nostre birre, specialmente la premium, lo stretto normale, la lager normale, insomma abbiamo abbiamo ricevuto molte parere positive. Perché parliamo di un antico marchio, questo marchio birrificio di Messina, la birra di Messina... cioè la produzione della birra a Messina, che aveva da 100 anni, ecco. E stavamo perdendo questa grande tradizione, e noi l'abbiamo rimessa di nuovo in moto. E per questo siamo orgogliosi di questa cittadinanza che ci ha appoggiato molto, che è stata molto solidale con noi, ma non solo loro, ma i media, i giornali, l'Italia stessa. C'è stato un momento, Mimmo, nel quale all'estero. Meno male, anche loro. C'è stato un momento nel quale stavate quasi per gettare la spugna, un momento critico, un momento cruciale, e superato quello poi è andato tutto meglio? No, posso dire di no, perché noi siamo 15 persone che abbiamo la testa abbastanza dura, e quando trovavamo porte chiuse noi andavamo a sfondarle tranquillamente, perché noi vogliamo lavorare, vogliamo la nostra dignità di lavoro e dignità di padre di famiglia, e vogliamo che i giovani prendano esempio da noi, perché quando si vuole una cosa, quando si crede una cosa, quando il sogno lo vogliono realizzare, e basta che c'è coraggio e cuore e si va avanti. Siete i nostri migliori testimonial, posso dirlo, è veramente uno splendido si può fare. Ricordiamo che adesso le birre si trovano non nella grande distribuzione, ma nei locali e nei bar, ma presto dovrebbero essere in commercio anche a Torino, Roma, Firenze, Milano e all'estero, leggo di Inghilterra, Albania, Belgio e Francia. Esattamente, abbiamo molte richieste, l'abbiamo spostato per l'anno prossimo, quella all'estero. Io spero quest'anno di arrivare a Torino, di arrivare a Milano, di arrivare a Firenze, a Roma, dove mi hanno chiesto la birra. A Milano la vogliamo anche noi. Lo so, perché ci sono dei locali che... Ma la paghiamo, la paghiamo, non è che la vogliamo gratuitamente. Sì. No, dico, sono molto soddisfatto, sia io che i miei compagni. Senta, ma in questi 2 anni che non avete venduto le birre, quasi 3 anni a questo punto, che sì, in tutta questa fase di passaggio, come avete fatto a tirare avanti? Insomma, è stata allora dura. È stata un po' dura, sì, però grazie a Dio abbiamo avuto la famiglia, i figli, la moglie, che sono stati molto vicini a noi. Cioè, ma adesso il business plan cosa prevede? Cioè, la conquista dei mercati esteri, l'hai già detto, Mimmo, ma insomma, sì, per andare a far guadagnare questa che è un'impresa, a questo punto un'impresa cooperativa, avete degli step, avete delle... cosa prevedete? Noi prevediamo che l'anno 21 arriviamo a 25-30 mila ettolitri. Se arriviamo a questo traguardo già siamo in pareggio, e qualcosa di stipendio possiamo prendere. Mm-hmm. Perciò penso che ce la faremo, sono contento. Per ora state ancora investendo. Quanti sono questi migliaia di ettolitri in birre? A cosa corrisponde in litri di birra, in bottiglie di birra? Quante bottiglie volete produrre? Ma noi vorremmo produrre, adesso non ho la calcolatrice, ma dovete pensare ogni pedana che noi abbiamo 1700 bottiglie. Dovremmo fare almeno 20.000 ettolitri, 25.000 ettolitri, però sono un paio di milioni di bottiglie. Ah, insomma, un bel numero. Sì. Ma siete ancora in voi in 15 o avete dei dipendenti oltre a voi? No, purtroppo ancora no. Io spero che un giorno verrà pure il momento, se il mercato ci dà l'appoggio, di assumere pure qualcuno. Adesso per ora siamo noi 15. Abbiamo uno stipendio da questo mese ridottissimo, però ce l'abbiamo, però andando avanti così speriamo magari di dare pure si rifarà vivo avanti anche qualcuno di quelli che all'inizio invece non ha avuto la stessa vostra forza, la vostra stessa tenacia. Beh, però quello lo assumete part time a 400 euro secondo me e non se ne parla neanche. No, non è questo, sai, c'è una canzone, aggiungi un posto a tavola, giusto. Non è giusto fare in questa maniera. Ha ragione, posto per tutti. Di dare posti ai giovani, così non abbandonano la nostra città. No, questo è molto giusto, anzi, e quello sarà il momento in cui ci sentiamo di nuovo, perché adesso è molto bello il fatto che siete in 15 e tutti i lavoratori sono tutti soci. Poi nel momento in cui invece ci sarà qualcuno che invece è un dipendente, che magari chiederà di diventare socio, siamo ben lieti di ascoltare la nuova storia. Va bene, d'accordo. Grazie Mimmo grazie Sorrenti del birrificio Messina, uno dei 13 soci di questa cooperativa, a questo punto possiamo dire storica cooperativa, che è riuscita a arrivare alla commercializzazione di queste birre. Quindi se avete la possibilità di comprarle, almeno per assaggiarle, fatelo, perché va premiato questo sforzo. Sono tante le realtà come questa che stanno cercando di rimettersi in piedi da sole di fronte a fallimenti, chiusure di aziende. Sono storie non facili, non tutti ce la fanno, loro per il momento ce l'hanno fatta. A proposito, già che siamo in area birra, va, ci abbiamo una notizia. Una notiziola che riguarda, abbiamo parlato domenica scorsa di Foodora, adesso anche Uber, nonostante il giudice abbia stoppato Uber Pop, Uber si mette a fare concorrenza a Foodora perché, e alle altre aziende che già lo fanno, ti offre il servizio del trasporto cibo tramite la app. Non ci sono più. Ma quindi il ristorante portano il cibo? Ti portano direttamente il ristorante, ti portano il cibo a casa esattamente come fanno gli altri. Perfetto. Tramite la app, però, quindi non c'è più la questione delle zone, della città, gli orari, turni orari, zero credo anche diritti sindacali, non so esattamente come funzioni. Fa tutto la app, ci pensa la app, infatti anche i soldi della consegna li prende la app. C'è scritto piccolo nel contratto. Vabbè, questo era un si può fare di questa settimana. 800 24 00 24, vi aspettiamo. Abbiamo un ascoltatore, sì, Stefano da Napoli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Chiamo a proposito dei treni, no? Del trasporto del treno. Sì. Per i cani io proporrei di riservare dei settori specifici per i cani e i loro accompagnatori. Sì. Però scusa un attimo Stefano, poi ti faccio proseguire, però qui la trasmissione ha preso una piega inaspettata, perché noi siamo partiti chiedendovi, sulla scorta della notizia in Giappone dove vogliono impedire alle donne di farsi il trucco sul treno perché non è una bella maniera, una bella educazione, vi abbiamo chiesto cosa vi dà fastidio, è venuta fuori la questione degli animali e di lì adesso non ne usciamo Stefano. Ho capito. Vai pure avanti. Quindi la proposta è delle zone dedicate per cani con i loro padroni o animali con i padroni. Esatto, perché io mi sono trovato a condividere uno spazio con un cane dietro. A parte che potrei essere allergico al pelo di cane o altre cose varie, certo. Questo non si tiene conto dei passeggeri, no, si tiene conto sempre questo, dei diritti degli animali e altre cose varie, però poi si dimenticano le persone che comunque possono avere dei limiti, possono avere dei pregiudizi. Io per esempio non farei mai un bagno, non mi immergerei mai in acqua, sì, a fianco a un cane. Uno può avere anche semplicemente paura, oppure, magari un po' di pauretta, no, ma questo, esatto, ci può stare. Stare su una spiaggia con i cani, sì, magari fanno la pipì eccetera, diventa anche difficile, nel senso che bisogna fare una carrozza per i cani, immagino una diversa per i gatti, forse anche una diversa per i pappagalli, criceti. Non entriamo nello specifico, diciamo per chi conduce animali, i passeggeri che portano animali, ma tutti insieme sono pericolosi, cani, gatti, piccioni e criceti, ecco il discorso. Limitiamo i passeggeri normali, sì, tra virgolette, mentre invece poi diamo tutti i diritti possibili e immaginabili a quelli che portano animali con sé. Sì, le virgolette mi sembrano doverose perché non vorrei recludere nella normalità i proprietari di animali. Rimane avanti poco conoscendoti e il concetto di normalità, esatto, è tutto relativo. È un po' più ampio. Allora, sapere che, almeno sapere io, che se scelgo quel vagone trovo degli animali, posso scegliere in un altro posto? Ecco. Certo. Allora, posso porre la questione in questi termini? Penso di sì. Saperlo fin dall'inizio, non trovo salire e trovarmi invece con un cane che mi sta dietro. È un'interessante questione questa qua, Stefano. Sarebbe il vagone animali, potrebbe essere un inatteso ritorno al passato, perché quando si viaggiava con gli animali. Aspetta un attimo, Stefano, ti ricordi che in passato era così? Cioè, la gente viaggiava, ma non solo col cane, col gatto, con ma col galline, cavallo, con le galline, con la vacca, col maiale. Lì sì che c'era bisogno. Però magari se tutto questo amore per gli animali ci porterà a viaggiare ognuno con con un animale, forse quello che tu dici, Stefano, non è così peregrino. In ogni caso, noi giriamo la tua segnalazione a Trenitalia, agli uffici competenti, per questa tua proposta. Noi, le proposte ci piacciono sempre. 800 24 00 24, però chiamateci anche semplicemente per dirvi che cosa vi dà fastidio sui treni, quando viaggiate, quando fate quando siete pendolari o quando fate i viaggi più lunghi, insomma. Noi siamo qua, 800 24 00 24. Tale intervista. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì o no, sì o no, sì o no, sì o no, sì o no, sì o no, sì o no, sì o no. Ehi, io già lo so, che matto diventerò, se mai mi cercherai. Forse avrete già capito dove vogliamo andare a parare con il sì e con il no. Ci occupiamo del referendum perché, a conti fatti, Radio 24 deve comunque equilibrare le presenze a favore del sì e a favore del no negli spazi informativi e anche nei programmi. Quindi noi diamo il nostro contributo da questo punto di vista. Anzi, glielo facciamo dare a Tiziano Treu. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Ex ministro, lo conoscete naturalmente, sostenitore del sì al referendum. Oggi c'è anche una manifestazione, se non sbaglio. Sì. Che è già una manifestazione a favore di qualcosa, è strano perché normalmente si va sempre contro, Treu. E le posso dire anche che l'hashtag si va in piazza è in testa in questo momento su Twitter, quindi evidentemente è anche una risposta, visto che sui social spesso invece si battaglia per il no. In questo momento è positivo che si vada in piazza per il sì, in effetti. State facendo anche tendenza. Senta, ci dà una ragione per il sì, che però sia diversa da quella che abbiamo sentito che altre volte, ora o mai più, no? Ora o mai più, perché non di per sé fare un passo avanti necessariamente è un bel passo. Ci dica perché sì. No, intanto ora o mai più non esiste nella vita, fortunatamente, però non c'è dubbio che il passo è importante, perché tocca le strutture democratiche del paese, il Parlamento, il rapporto Stato-Regioni, quindi è importante. Però al di là di vedere i motivi specifici per cui si migliorano le regole che ci governano, io direi una cosa generale, che mi pare. Insomma, qui siamo in un mondo difficile, complicato, con disagi diffusi, e quindi l'atteggiamento è tendenzialmente o no protesta, oppure lasciamo le cose come sono, perché se ci si muove magari ci crolla in testa qualcosa. Io credo che invece il senso di una battaglia per il sì, l'impegno di fare nuove regole democratiche, vuole cambiare il clima. Insomma, facciamo anche qualcosa di positivo, guardiamo, siamo un paese vecchio, però guardiamo avanti, non solo siamo chiusi in casa. Diamo un messaggio che dovremmo coltivare, naturalmente, con degli argomenti. Certo, un messaggio di positività. Siamo un paese vecchio, diceva lei, però l'ha stupita la notizia che invece tra i giovani, secondo un sondaggio di questa settimana, in realtà il sì è più indietro tra i giovani che non tra le persone più di una certa età. Diciamo, questa proposta di novità non farebbe presa tra i più giovani. Come mai? Questa è colpa nostra, perché non riusciamo a spiegarci. Questo non riguarda solo il referendum. Io, che seguo i problemi del lavoro e per esempio della previdenza, è difficile a spiegare ai giovani in generale qualcosa che riguarda il futuro, perché un cambio di costituzione, di regole del Parlamento, delle regioni, non ha effetti visibili domani mattina, no? È più facile vedere appunto un Twitter veloce piuttosto che un nuovo application, però, e quindi è difficile tutto. Per esempio sulle pensioni anche i giovani sono quelli che usano meno, che so, la previdenza complementare che servirebbe, perché sì, questa va molto in là nel tempo e quindi sì, bisogna lavorarci di più. Senta, se volesse, potesse dire in 30 secondi la cosa che più cambierà in meglio secondo lei se vincerà il sì al referendum, una cosa soltanto. Ma io vedo che tutte le decisioni saranno più semplici, perché tutti invece di due camere che si bieticciano o comunque che si complicano, ne abbiamo una sola che decide le cose importanti. Quindi invece semplicità. Di avere trattato e ragione, un andire vieni continuo, controversie e veti, abbiamo una guida più forte dello Stato. E invece, la critica più sbagliata o più fuori luogo che è stata fatta questa riforma, o più sciocca, secondo lei? Guardi, spesso le critiche più dure riguardano la legge elettorale, il combinato disposto tra la riforma del Parlamento, delle Stato Regioni, e si dice che siccome la legge elettorale può dare una forte maggioranza anche a un partito che magari non ha tanto sostegno, allora questo è pericoloso perché può portare a una deriva autoritaria. Sì. E questa è la critica più forte, secondo me sbagliata, perché a parte che la legge elettorale si può cambiare, la può cambiare la Corte Costituzionale, mi auguro che anche il Partito Democratico si mette d'accordo. Ieri si è riunita una commissione, ieri l'altro non ricordo male, ma insomma non si sa se sia uscito qualche cosa. Grazie però per il momento a Tiziano Treu del Fronte del Sì, grazie per essere stato con noi. Grazie. E grazie, allora, a voi. Buona giornata. Buona giornata. Allora, il giusto è il tempo di dire chi è il vincitore di oggi. Stefano da Vicenza, applauso. Applausi. Che ha avuto il coraggio di dire che gli danno il fastidio, dillo tu. Le puzzette vince, e con le puzzette va a vedersi Escher a Milano, due biglietti a Palazzo Reale. Ci sentiamo domani, grazie ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Paolo Colleoni in regia quest'oggi. Ciao da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini.